roba. I funi, K. Sì, ma non stai uscendo bene. Peggio per l'altro stai uscendo. Non è amplificata bene. Sì, quando non ci sono le scariche, appena appena si sente, ma no. Che microfono è questo? No! Sì, se tocchi le batterie esci bene, se no no. Di alimentazione sul circuito stampato sicuramente. Bisogna ricontrollare tutto e vedere un po'. No, non si è uscito. Mai. Ma mai ti vuoi occupare il domo, vice radio, e via Roberto. Ma perché il domo? La paga da 30 euro. Più microfono con la radio. E se basso anche col microfono normale, io l'ho sentito l'altra volta usando un microfono normale, è bassa di modulazione. Prova, vedi un po', Luca l'ha cambiato praticamente la colonna. tensione, vai da sopra a sopra, non so cosa cazzo ha fatto. Però non si vede nulla, è subito tutta scarica. Avanti Gianni per Chiodo, vai. Eia, è sul che apparecchio lo sta mettendo. Qui facciamo andare avanti a Chiodo Ruggito. Buonasera a Chiodo. Dai, poi mi dirai la risposta, Claudio. Dai. Avanti, Chiodo Ruggito. E allora, ti è piaciuto? Grazie, dai. E in piccolo, nel mio piccolo ho fatto una stazioncina, dai. Comunque piace tutta la radio belle, dai. Piace, a me piacciono perlomeno. Avanti, Claudio. Poi lancio per Luca. Un'affermazione devo fare io, senza che nessuno si offenda e senza che presunzione. Non mettete chiunque faccia qualche video, ognuno di voi fare quello che vuole, la roba sua. Non mettete il video dove c'è la mia voce su Facebook, perché ne ho già beccato parecchie. Ok? Non voglio che esca la mia voce su Facebook. Lo chiedo per cortesia, anche perché diciamo una cosa che non si può fare, però ve lo chiedo a titolo di cortesia, non mettete la mia voce, non registrate quando sto parlando io e poi fate il video su Facebook, perché non mi va bene. Oh Claudio, io non ho messo manco un video, forse si è espresso male che ho registrato, io ho messo solo una fotografia, punto. No, ma non è perché me la fatica a me personalmente, capito? Non voglio che sentano la mia voce. Ci sono certi video su YouTube dove c'è la voce di Tizio, Caio, Sempronio, non va bene. A me non piace, capito? Perché l'abbi fatto tu, e chiunque la faccia, non mettete la mia voce perché mi dà fastidio. Ne ho beccato un paio, poi non so chi è che li abbia fatti, però ho visto che mi hanno anche mandato su WhatsApp, appunto dove c'è la mia voce su Facebook, fate prova, avrei tirato fuori, era su Facebook, vabbè. Ok, vediamo un pochino Luca se ha sistemato qualcosa, lui è su della terra, sa radio, è un pony, è un po' quel pony di Roberto, non si è una cicca, cos'è, ma. Un pony c'è canale di quelli piccoli o un pony base? La base, quel pony base, paga più 30 euro, è tutto il giorno che sta cercando di far andare un microfono, cazzo, ma tu non ne va. E che tacco c'ha, Claudio? A 5 punte. Ah, 5, perché a 5? Il quinto che cos'hai? Non lo so, è a 5 punte, è come la KB23 praticamente, c'è lo stesso connettore della KB23 in originale. Capito? Uguale, precisamente. Il pony, mi ricordo, perché avevo il pony 6 canali e c'era il connettore così. A 5 punte, non lo so. Perché a 5 punte quello su no, lo sai. Ma Luca è a terra. Avanti Chiodo! Gappa. No, ma non è una cosa brutta, è una cosa che non si può fare, fa parte della foto, le voci fanno sempre parte della privacy, come sai benissimo, la mia voce è molto molto conosciuta in radio, quindi per quello che sto dicendo, non voglio apparire come uno di quelli che poi si mette o lo mettono su Facebook per far vedere che la modulazione è la più bella di tutti, a me non interessano queste cose qua. Tranquillo, è un'affermazione generale, non è riferita solo a te. Per chiunque metta qualcosa, fate quello che volete, ma l'importante è che non ci sia la mia voce. Luca! Sei famoso! No, a me ha fatto già, perché poi sembra, sai, che perché in presunzione, mi ci ha fatto fare il video, capito? Sono cose che ho già sentito già, quindi voglio evitare, però già spiegate perché chiaro, io me ne sono uscito da tutte queste trottate, capito? Anche perché sono stato preso a calci in culo da un ragazzino di 13 anni, quindi avevo voluto basta, non voglio avere più a che fare con niente, quindi Claudio sa già di cosa sto parlando, perciò chiuso il discorso. E una bella vecchia. No, assolutamente, ti ripeto, non è una solo un'affermazione, anche perché sai benissimo, io non navigo su Facebook, su internet, non sono da nessuna parte, giusto su WhatsApp perché è il mio telefono privato e basta, ma io non appaio da nessuna parte. Però c'è gente che ruba queste cose e ne crea problemi, capite? Crea problemi. Purtroppo è così, perché si mettono a rubare foto, a rubare video, filmati, eccetera, e poi ne possono creare problemi. Anche la TV ne parla molto di queste cose, infatti la Postale sta lavorando molto su queste cose. Perché anche da poco stavo ascoltando un programma che c'era a Canale 5, delle Iene, stavano parlando proprio di internet, di queste cose che mettono, rubano e poi magari fanno ne viene fuori una cosa diversa, capito? Però magari con la tua immagine, con la tua voce, sono cose molto delicate, per quello che l'ho detto. Solo per questo, per il resto, ripeto, non sono cose che non brutte, sono cose belle. Sono cose belle, però bisogna stare molto molto attenti. Luca! Yeah. Beh, bugato bene. Qua. È un microfono dinamico questo, qua. Secondo me non ne ha neanche di amplificazione. Se c'è lo slider, perché non c'è amplificazione? Se c'è le batterie, lo slider è amplificato. Poi, ti ripeto, stando tanti anni dentro l'armadio, quello era della Gain Quinto, della radio che avevo, ho volato la radio e mi sono tenuto il microfono, però è originale quello. E io non mi ricordo se l'ho mai usato, se l'ho provato, non lo so, io l'ho fatto provare perché ho visto le connessioni che erano uguali, ho detto prova questa, vedi se funziona meglio del tuo, invece le connessioni sono cambiate, però anche cambiando le connessioni non va. Però anche lui quando ha usato quella radio per farcela sentire, col microfono normale esce una cagata, esce basso basso del radio, capito lui? E allora aperta la lice. Ah ragazzi, ma c'è la lice, va, non va dentro. È più leggero dell'inuit, non lo so, se è quello che dico io, quello cromato, quello è bello però, quello lì è un bel apparecchio. Ma non penso che stia dicendo quello lì, c'è un pace stazione base che è tutto cromato. Quello è un poli, non è un pace, ti ho detto, è un poli 23 canali. Ma allora, c'ha le bande verticali, è una gaggata questa. Ce la paga per 30 euro, costa di un microfono della radio, ma lascia aperta, ma non serve a niente. Non serve a niente. Oh, qua, ma per mandarti la foto di come è venuto l'inuit, che sembra che sta uscendo dal negozio, cosa devo fare? Dove la devo mandare? In quello di tuo padre? Sì. No, non ti preoccupare, non è quello il problema. È una cosa mia personale, qua, non ti preoccupare, non è... Io ho molta paura in queste cose, forse perché non ci sono in mezzo, non ho Facebook, non mi interessa avere queste cose. Ho già sentito e visto cose un po' particolari, capite? C'è gente che ruba i filmati, ruba le foto, poi le adopera per fare cose brutte. Tutto qua, non ti preoccupare, non è successo niente. Te l'ho detto giusto per una informazione, perché mi hanno mandato a me un paio di filmati dove c'è la mia voce. Poi non so se è roba che hai messo tu, che hanno messo altri, non lo so. E quindi chiedo gentilmente la cortesia di non mettere la mia voce su Facebook, perché non mi interessa. KK, sì già, e quel pony è molto più piccolo dell'inuit che ho io, ma molto più piccolo. No, a me non piace, non è assolutamente bello. C'è le bande verticali dei canali, non mi piace. Non è brutto, non so. Cos'è cromata, Luca, di sa radio? Cosa fa? Cos'è cromata, ecco la radio? È l'alluminio, non è cromata. Ah, vedi, è brutta già, lascia fare. Non mi piace a me, che pensi? vabbè, questo sta sempre fare una roba vintage, da internet e cose. No, io ho un po' finito di prendere di prendere altri apparati, io non ho più cane, ce ne sono abbastanza qua adesso, ne ho 1, 2, 3, 4, 5 che vanno bene così, 2 me li sono venduti. Vabbè, adesso hai venduto un mare, adesso perde, ne avevo 26 io di vintage, ne ho dato forse un 7-8 a Gianni Capridue, il resto li ho dati a Roberto Quadrato, il resto li ho regalati io stesso, non se ne vai, ne ho tenuto 3 ne ho un po', ci ho dato il Maritio e il Precipson Bat. L'Elbex è quello di bilancio, va, il resto cosa vi fai? Cosa da internet già, ma ce l'ha comprato qua a Sassa di 30 euro con la radio, cazzo, se vi com'è, ma che buono mai in capo, se la rubavo tutto lì a due scocci, va, avanti Claudia. Mangia se la rimette a posto. Sicuramente chi me l'ha mandato l'ha preso, non so se dato l'abbia preso, però io credo, non ne intendo neanche perché io odio il computer, ce l'ho, guardo le cose, le mie mail, le cose necessarie, ma devo guardo su eBay se c'è qualcosa che mi può interessare, ma non appartengo a nessun gruppo, non ho Facebook, non mi interessa, per me queste cose sono cose che non mi riguardano, ognuno è libero di fare quello che vuole, però io non mi riguardo, capito? Quindi non so, da dove me l'abbiamo mandata, ed è un'affermazione che ti ho fatto, ti ripeto, chiudiamo il discorso, non ti preoccupare, non c'è niente, sì, ma infatti, il problema è che poi prendono e usano le cose per divulgare notizie e fare altro, quindi non va bene. Ed è certo sì un reato, non si può fare. Avanti, Luca, riprendi. Avanti, chi chiama Spaviero? Ciao Daniel, buonasera, ben ascoltato. Sempre lì in agguato sei tu, Com'è il tempo ritano? Grazie Daniel, grazie. Ti volevo passare un amico lì nella zona di Muros, per vedere se lo sentivi, ma mi hai già detto che senti solo a me, non sto parlando da solo, sto parlando con Claudio, che l'ho arrugginito da Muro, se già mi ho più nome da Sassari, Luca da Sassari, Daniel, capito? Sei fortissimo oggi, è 5-7, senza nessun problema. Claudio, lo senti a Daniel Doritano? Daniel, hai sentito a Claudio? Cappa, no, Claudio non ti sente, non sente nessuno, sente solo con me parlare, infatti è entrato a salutare. Caspita, oggi quindi propagazione favorevole. Sempre stessa potenza, Daniel, sempre 20 watt di portante, 40 modulati. Sai perché ho aumentato il segnale? Perché ho tirato sull'antenna di 4 metri circa, più 2 c'è di piantone, quindi sono intorno ai 6 metri, diciamo, dai, intorno ai 6 metri, prima era bassa, era 2 metri d'altezza, nonostante il palazzo sia alto, e quindi sei passato da 5,5 a 5,7, io da 7 praticamente quasi 9. Va bene, va bene. Posso solo darti saluto di Claudio che l'ha arrugginito, di Gianni Doppio Room, di Luca Flipper. Altro non posso fare, Daniel. Stacca, stacca. Certo, te li saluto tutti, Daniel. È un piacere averti riascoltato. Mi dispiace che non senti nessuno la Sassari. Ieri c'era Santo Lucio, c'era Giovanni, aveva 5-7. Più o meno quanto arrivi tu. Mi ha fatto piacere di entrare a salutare. Però purtroppo rimanere in ruota non fa perché altrimenti cosa devo fare? Ho mi sposto di canale se vuoi per fare due chiacchiere, ma non mi sembra il caso lasciare gli amici qua sul canale 10. Ok Daniel, scusate. Ciao Daniel, un abbraccio grande, alle prossime, dai, ti salutano tutti gli amici di Sassari qua, mi dispiace che non li senti, porca miseria, altrimenti avremmo fatto un bel questo, manca anche l'altro mio vicino di casa, ma sicuramente non lo senti, A Roberto, lui entra sempre verso le 6:30, alle 7, magari se rimane in ascolto, vediamo un pochino se poi ci scottiamo, facciamo qualche prova con i miei vicini per vedere se li senti, ok? Ci sentiamo Dani, un abbraccio, grazie. Ciao Dani, grazie a te, vai Gianni. Un piccolo istante, l'ho sentito anch'io, dai. sentito Daniel, è già nell'hotel room. Daniel, no, non ti sente già. Non sente nessuno, invece fa due risate perché c'è sempre da solo parli tu. E poi non parlo da solo. Io qua l'ho sentito, ma appena, proprio. Se mettevo le cuffie magari riuscivo a percepire quello che diceva, però non si capivano le parole, si capiva a bisbigliare, ma non si capiva. Avanti, chiodo arrugginito. Va bene. Lì da mano ha fatto un segnalone oggi. 5-9, lui 5-7 arriva qua, una bella modulazione, è bello forte arriva, eh. Vabbè. Luca, terra radio di Roberto. Vabbè dai, riprendiamo, non c'è problema, se entra qualcuno già. No, ieri c'era anche stato lo scioglio. Ogni tanto si affaccia qualcuno, ma no, non si affacciavano mai, evidentemente quando ho tirato sull'antenna ho aperto anche qualche altro varco sicuramente. Ma Dani arriva fortissimo, molto bene arriva. Avanti già, ripeti. Dani al telefono, riprendi chiodo. Oh, già ci sono, sto cercando quel pugno per... Non ti preoccupare, ti ho detto. Io te l'ho detto a titolo così, per dirtelo, ma se fosse un altro l'avrei detto un altro, ho capito. Una cosa mi dà fastidio, a me personalmente, per tutti i rispetti. Chi me l'ha mandato non so dove l'abbia preso, che cosa abbia fatto. Non mi interessa qua. Io te l'ho detto e tu hai provveduto, basta, e questo per me è già molto importante. Non ci sono altri problemi. Tranquillo, sereno, che non è successo niente. Ok, doppio, riprendi. Sono andato a vedere un bel apparato di quel pugno, a me è piaciuto. È quello che dicevo io, è il pugno CB75, è quello stazione base che c'ha tipo la radio, c'ha la sintonia. No, ma a me non darebbe fastidio, non mi interessa, dai. Anzi, mi fa piacere ascoltarmi e vedere come esco. Ma è partito tutto dal fatto che io avevo messo la mia stazione, quindi non è una cosa che è di altri ma è mia e posso fare ciò che voglio, delle cose mie. No, l'ho solo fotografata, basta. No, non è stato fatto filmato, tu hai sbagliato dicendo il video, invece era una fotografia. Sì, vabbè, ma non è niente, a me non mi dà nemmeno fastidio, ti dico la verità, non me ne frega nulla. Io sono diverso da Claudio. Sei diverso, sì, sei più alto, più grosso. No, la pensiamo diversamente, cosa c'è? Tra grosso sei grosso anche tu. Grandi lì, credi, io rispecchio. No, chiamo a me, non è che me la... è una mia cosa personale, per carità, non ce l'ho con chi fa queste cose. Noi ad esempio non possiamo farlo come la amatori, di mandare notizie, foto e quant'altro su Facebook, capito? Soprattutto delle emissioni radio. Noi abbiamo un sito a livello mondiale che è qualedetta.com e noi lì abbiamo lo 7 digiti mio nominativo IS0 DFB. Su qualedetta.com ti appare il mio nominativo, nome, cognome, indirizzo. Io anche da lì ho tolto tutto, perché lì c'era tutta la sala radio, c'ero io seduto con la foto, c'erano tutte le immagini di tutte le cose, però quello è un sito ufficiale dei radioamatori, quindi tutti i radioamatori, quando io sto parlando con un altro radioamatore che dicono il mio nominativo per vedere se io sono veramente un radioamatore e non sono pirata, lui digita il mio nominativo su QRZ e gli appare tutto chi sei, con chi sei e sei per sei, capito? Però quello è un sito ufficiale della Rimattu, quindi lì noi possiamo fare altre cose, però no, non possiamo divulgare né notizie né mettere altre cose su altri siti, solo su quelledetta.com, capito? Sì, so come funziona. Cappagato, qualche volta sono entrato anch'io a vedere, guardato un po' di stazioni, ma io dico che se loro non hanno la vattemele e l'acqua di rose, cosa ti dà frutti, anche se sento la tua voce, ma chi se ne frega. Più che altro le fotografie sono da temere. quando uno mette le fotografie le possono usare per altre cose, eccetera, eccetera, se poi vogliono non mettere, anche se io qualche volta faccio lo sbaglio di mettere le fotografie, ma sempre in buona fede, speriamo che non ci sia nessuno che li usi per camuffare qualche cosa. Cioè, quello è il problema, ne parla molto la Iene di queste cose, capito? Cioè, anche l'altra volta parlavano tutti di telecomunicazioni, di Facebook, di tante cose. Io ho paura, io non sono come lui, forse ripeto perché non appartengo al web, quindi è così, perdonate la mia ignoranza, però io non penso di aver detto niente di male, fatto niente di male, per carità. Ognuno, certo, della roba sua può fare quello che vuole, per carità. Ci mancherebbe altro, però io ho sempre paura che queste cose vengano poi divulgate, fatte, usate per, sai, una voce, una foto, per una qualsiasi cosa. È sempre un pericolo. Facebook non è una cosa bella. Poi rispetto chi ce l'ha, chi la usa, per carità, io rispetto per tutti, però per me non è una cosa bella. È un mondo di giovanetti, è un mondo di persone che ce ne sono brave, ce ne sono interessanti, ma ci sono anche persone che valgono meno di te. Quindi io non appartengo a quel mondo e non mi interessa. Tutto qua. Avanti, Claudio, ma neanche a paragone, quel pony, neanche a paragone con l'Inuit che ho io, ma neanche vicino glielo metto qua, assolutamente, a parte è fatto molto più piccolo, e poi molto più brutto rispetto a quello che ho io al 294, adesso si chiama radio, sembra uscendo dalla fabbrica qua, sì è bella anche quella, la prima che me l'ho ratterato. Sì, è bella anche quella, però questa come è venuta adesso col frontalino nuovo è spettacolare, ha fatto un capolavoro Luca, veramente un capolavoro, tutto in ordine, ha lavato tutti i pomelli, nella luce alla vasca per il lavaggio, sono usciti luci, nuovi luci, ha messo tutti i pomelli cromati suoi, originali, ci davvero, è uscita veramente molto bella, infatti ce l'ho nell'altra base dietro di me. Già lì ancora non l'ho messo a posto, non sono, devo ancora provare, figurati. Avanti già, ma Luca ancora c'è. Sono riuscito a trovarlo quello che c'è tu Claudio, lo volevo vedere bene, in primo piano, ma non sono riuscito a trovarlo, mi hanno scritto che l'apparecchio è stato esaurito. Ma l'Inuit 294? E io? Boh, è esaurito, c'è un sito dove ce ne sono parecchi. Non ando alla radio, poi c'è un bambino, c'è Amici Game, vedi, quello è Roberto, il tuo nome è Amici Game, infatti per quello che non si riesce a dare la potenza di radio, con la mia è una bestia, quello è il mio BT5, esce un bel forte, l'ho fatta sentire qua, ti ricordo, sì, anche questo qua, io tocco la sveglia, metto in auto, automatico la radio si accende da sola, già provato, è perfetto, non c'è un difetto questo. C'è l'Omair verde quando schiacci il PTT e quando poi vai a modulare si lampeggia la spia rossa. No, ma la radio. Avanti già. È così. Già ce ne sono belle di quelle, non sono tutte belle quelle antiche, non è che a me mi piacciono tutte. Comunque tu della tua collezione che c'ha lui ti hai dimenticato il più importante, il DAC. Cosa già? Non ho capito. Poco fa tu hai elencato tutte le radio vintage che ci avevi e ti hai dimenticato la più importante, il DAC. Sì, il DAC per me non è una radio da mettere assieme a questi cicafugi, no? No, no, è avuto bella, il console 1 che ho dato a Gianni, domani lo dai. Ma la radio è quella, bellissima. Ho avuto tre Royce, prima, seconda e terza serie, capito? La terza serie l'avevo data a Walter che le mancava. Ne avevo tantissime. Avevo il Courier, avevo... Ehi, quanto te ne ho dato, Crate? 7, 8, sì, e poi ne ho dato altre 4, mi sembra, altre 4 a Roberto. Ne ho dato il 101 Digital, Roberto, il TS700, il 711 della Kenwood, ehi, ne ho dato Roberto. La linea di Crate, ehi, ne ho dato. Ne avevo la carta piena qua, è fatto proprio tutto. complesso e due basi voi, basta, il resto conservato tutto. Conservato quello che è rimasto, il resto sono tutte vendute. Quindi stamattina, o forse stasera, non so, Luca Bus è qua, è partito forse la T230 e mancano ancora 3-4 giorni e partirà anche il PS780. 756 già partito, le antenne sono partite, il 440 è partito, e tutte cose che non tanto non me ne va di niente. Luca ci sei, Luca sta tabaccando, avanti già. E c'è anche un sito dell'AM International dove ci sono tutti gli apparecchi base, apparecchi vecchi, diciamo anche portatili dell'AM International. Sì, dell'AM International va a vedere Montemore 1, Montemore 2, Montemore 3, e sciughe baracchini, non li conto, meglio non contare. Sì, quello che l'Inte, che quello lì c'era anche Gianni, uguale a quello, io l'avevo tolto perché stavo trasmettendo, ma non lo c'aveva più. Ha detto guarda l'uomo già farà, no, mi sono perso l'anima, l'ho preso e messo anche l'armadio, l'avevo tolto, poi l'avevo rimesso e non lo riceveva, trasmetteva ma non riceveva, e quindi lo tenevo lì assieme agli altri, poi quando erano tutto qua dentro io apri la macchina e poca di tributo che non voglio vedere più niente qua, e lui guarda quello c'è tu già che ti ho detto che faceva, aveva fatto quel difetto dell'alimentazione. Sicuramente ho bruciato il filare di ricezione o qualche cazzata, non lo so, però è nuovo, nuovo, molto bella quella roba. Avanti qua. Bene. E si conferma. E ne avevo, ti ripeto, ne avevo tantissime, tante. Che vuole entrare, avanti. Bene. Va tutto bene. E se non ci chiudono, sì, anche tu. Ciao, buonasera. Moriremo tu. Buonasera a tutti. Ah, tu! Luca, mi vai Lu! Forse non mi sente, non posso dire l'altro. Sì, dimmi, ciao Lu! Ciao tu! Lo sai che lo diceva anche quel prete alla messa, tutti dovremmo morire prima o poi, e forse anche io! Vabbè, sicuramente lui aveva, come si dice, un circuito diverso di morte perché doveva amministrare le morti degli altri. Si muore, bene, riprendi qua, buonasera a tutti. Non ho capito, perché è così basso il radio? Perché sta manovrando sul microfono di tavola, sta mettendo a posto. Bene, allora riprendi tu qua, da. Ciao Gianni. Ciao a tu, buonasera, mi hai sentito, avanti. Sì, buonasera anche a te, ciao anche a Claudio, lo sento... Finalmente lo sento. Sì, buonasera, ben ascoltato. Salutami babbo, Antonio Riserva da questa parte. Sì, e vabbè, sarà un po' vecchiotto oramai. E sono passati un po' di anni, però sempre bene. Che cosa io? Ma chi è vecchio? Tu? Ma fai che tu sei un ragazzino. Gloria, invece siamo per carità. Io. Tutta però io sono uscito di casa oggi, per carità, guarda, ma per prendere a letto ce la facevo, avanti, ho più lungo. Ehi, sto attaccando un altro apparecchio, e ci ho acceso l'altro ancora, non so se mi state ascoltando, e questo qui è l'apparecchio famoso, come mi state ascoltando? Andiamo un po', spostiamo un po' tutto, scusate un attimo. Io ti sento. No, ho visto il video poco fa su Facebook, quando stavi parlando con Daniel di Orizzano. Oh, hanno fatto un altro video. Sì, c'era un video in diretta, cosa sa, 10-20 minuti fa, stavo rientrando io ed era in diretta. Un bel segnale comunque hai, se è... Io non so se lui è veramente Orizzano, ma penso di sì. Lui Orizzano, c'è anche lo riabitato. Orizzano, io c'era Santo Lussurgio lo stesso. Quasi 5-9 arrivo Orizzano. E adesso c'è un'antenna non bella, tanto l'ho messa dove c'era il tradice delle direttive, la Mantova. Allora adesso me la piazzo anch'io l'antenna, lì io ho un appartamentino abbonato vicino a Santo Vissuto, proprio 2 chilometri. Adesso me la piazzo anch'io, vediamo se mi ascolti. Giovanni parla proprio da lì, me l'avevi detto tu, vicino a Santo Vissuto. 4 chilometri quel paese, no? 5 chilometri. Ma neanche, Bonazzaro, io sono all'ingresso del paese, proprio dove c'è sul Cantaro, la fontana della chiesa, saranno neanche 3 chilometri, 2 chilometri e mezzo. Era lì parla Giovanni, ieri c'era 5-7, 5-8 arrivo. Io prima avevo 5-5, 5-6, adesso avevo 5-9. Ma c'è molto in alto l'antenna adesso. E 6 metri praticamente dal piano del tetto, prima era 2 metri, perciò sicuramente supera bene la collinetta che c'è di tra i ciocca, capito? La montagnetta della cimenteria, anche se non mi dava fastidio, ma adesso la supera di netto, quindi i segnali hanno aumentato tantissimo da quella parte. Avanti già, quanto dicendo, sta dicendo benissimo. Hai visto il segnale? Hai visto, c'era il video completo. Ma dov'è questo video? Io l'ho visto su Facebook poco fa, l'ha pubblicato Daniel Piras, insomma che si chiami, che poi giunta lo stesso cognome dei miei zii, lì che sono del paese, anche loro. L'ho visto in diretta, stavo tornando a casa da lavoro e siccome sono iscritto a quei gruppi, l'ho visto in diretta, il segnale era molto buono. Su che gruppo è? Su che gruppo è? Già, no, me lo domande, non ce l'hai col telefono qui giù? Sì, me l'ha messo anche l'altra volta Daniel, me l'ha detto, però l'avevo messo su YouTube, non l'avevo messo su Facebook, capito? L'avevo messo su YouTube, va bene. E io qui, anche se ripeto, sono cose che mi hanno fastidio, però... No, guarda, io il video che ho visto poco fa, lui stava trasmettendo, era in diretta, si vedeva, con un Alano 2001, e niente, poi di Claudio sentiva solo la voce, e lui comunque, Claudio ha detto che non è iscritto a nessun gruppo, che comunque, diciamo che se entra qualcuno, ben venga, però... Ripeto, non lo sente nessun altro di Sassari, quindi a prescindere non è che può occupare un canale per parlare con una persona che la sente solo lui. No, quindi il video che ha messo Daniel è claro, non ti preoccupare. L'ha fatto anche l'altra volta, ti ripeto, me l'ha detto. L'ha messo su YouTube, devo andare a vedere, ma sono andato a vederlo. È lì che ho visto il segnale quanto gli arrivo, capito? Non è quello che stavamo parlando noi poco fa, quella è un'altra cosa qua. Questa è proprio una diretta tra me e lui, e niente, sentiamo solo io e lui, capito? Non ci sono altre persone. Va bene, Luca. Vai, volevo partire a terra di attaccare a lui, ragazzi. Sta aspettando la rete, Roberto, non ho visto un po' fa. Eccolo. Ma cosa c'ha l'attaccaghiera con l'apparato lì oppure di quelli aspirò? Perché Luca si perdeva? Ehi, attacco a spinotto, ti ho detto già 5 punte, cosa c'è l'attacco a ghiera? Attacco a spinotto 5 punte. La gaggata birmana che può ne aver fatto, ciao roba, sì, è Luca Flip, ma non esce né il microfono né la radio. E neanche lui. Luca, scusate un attimo, Luca, porta sul 12. Ma è uno spinotto DIN. Di quegli spinotti che quando modulavo in macchina mi rimaneva il microfono in mano col filo attaccato. Si staccava sempre ogni volta che tiravo. È una presa DIN. Come si chiama l'altro esattamente? Presa DIN? Sì, esatto, presa DIN. Cioè 4, 6 e 8 poli. Che cagata di diatta. Io tu immaginate che avevo la KB23 con microfono normale. Poi avevo messo il tablet P2 a tavolo quando abitavo a casa di mia madre a Porto Torres. E l'avevo fatto cambiare. Da Aquila Solitaria, già ti ricordi, da Giuseppe Azzara, Aquila Solitaria, che faceva, era l'unico che faceva fino a voi. È ancora rimasto così, perché l'ho regalato a Giulio e c'era l'attacco a 4. Cazzo, me l'ha rotto le balle, ogni volta che andavo a tirare mi usciva il microfono. Allora Giuseppe mi aveva detto, al portamelo che ti metto il connettore con la ghiera, così non hai problemi, una volta che ha avvitato non te ne esce più. Ed è ancora così, fatto da lui, dalla buona anima di Giuseppe. Villa Terzara, Aquila Cevittaria. Te lo ricordi già? Chi Giuseppe? Aquila Cevittaria di Porto Torres, quello del Ponte Romano, che abitava vicino a... come si chiama? A Francesco Murigio, ATM, lì attaccato a lui, che ha gestito baracchini, radio, che praticamente era quello del Radio del Golfo. Ho capito, sì, chi è, sì. Poi mi ricordo il nominativo, non lo ricordo il nominativo. Lui magari non lo so se lo conoscevo, però il nominativo me lo ricordo. Sì, tranquillo che lo conoscevo. Come nominativo almeno lo conoscevo. Sì, era l'unica infatti cambiare l'attacco, perché quegli attacchi lì io c'avevo un Intec 430 in macchina, in che macchina era? Nella 500 mi sembra, e praticamente quel 430 pompava forte, solo che il problema era che si staccava lo spinotto, perché c'avevo il Tamer più 2 quello grigio e celeste, quello che ha la batteria da 7 volt, quello lì. C'avevo quel microfono lì e praticamente pompava bene, però il problema è che quando tiravi si staccava la spina. In macchina, amico, perché lo usavo in macchina. Sì, già me lo ricordo, Sì. Stai andando a con la BBP5, stai uscendo una favola, molto bella come modulazione. Sì, Giuseppe Azzara, di cognome si chiamava, ISZ0, era un radioamatore, un vecchio radioamatore, abitava lì a Ponte Romano, gestava baracchini, ed è quello che ha costruito praticamente assieme al proprietario, che ancora oggi è sempre lui, Radio del Golfo. I trasmettitori li aveva costruiti lui, il trasmettitore ricevitore è stato fatto da Giuseppe. Molto bravo, tecnicamente andavamo a Lenicke, era elettricista a Lenicke, all'OPT allora si chiamava, poi Cossard, era diventato Cossard, comunque bravissima persona, brava, ha cambiato lui, era malattia e Bartolomeo Pisiele, che doveva ritirare roba, gliel'ho portato, ma l'ho fatto avanti, non ricordo come oggi, avanti Chiodo. Ehi a Claudio, ti voglio chiedere come arrivo lì con questo apparato qua, con le 3009, con l'MB più 5, come se mi senti di radio? Se no non c'ha volume questo baracchino, cavolo Claudio, è favoloso come ricezione il 3009, pochi apparati ho sentito che escono così bene di ricezione. Ma arrivi due, rompi balle. Ma che ci sono le portate? Comunque complimenti già, neanche da me arrivino quei denti, eh. Davvero, quanto ti arriva a te? Sto scherzando. No, è possibile, magari c'è un varco. E adesso mi sono seduto, non sono più coricato, poco fa ero coricato, la radio va meglio. E l'interessante è quello, l'interessante è che lo crepo. Non te lo dico più. Ma smetti, amico non te lo dico più. Aspetti, c'è un amico che sceglie. Tanto ti hanno già segnalato, ok? Quindi smettila, fai da bravo e non fare il bambino modello, perché tanto bambino sei. Sempre tutti quanti, ognuno di noi ha il suo momento di gloria. Nonostante l'abbiamo avvisato al momento in cui è entrato, il mondo della radio non è come faccio una sega, e invece non l'ha presa come cosa bella, capito? Sono rientrato io. Andiamo con lo scala in oggi. Chi? Coso, che l'ho ruggito. Come 30 sei qua. Ah, ma c'è tre, non avete più portate. Se torno a mettere la portante è fregato, capito? Allora sono cacchi suoi, è meglio che faccia la bravo e che ci faccia trasmettere tranquillamente, perché noi non stiamo disturbando nessuno, stiamo solo chiacchierando e facendoci i cacchi nostri, cosa che non si fa lui, ok? Ciao Robè, buonasera. Via, ciao, risaluto di nuovo a Claudio, dopo il room, poi c'è Antonio Riserva, ho sentito Claudio Ramulo, se c'è qualche altro, siamo soltanto un attimino con Luca Flipper e c'era anche Massimiliano un secondino, con il microfono comunque c'ha problemi qua, vediamo a provare qualche altra cosa. Ok, facciamo riprendere, vediamo se è rientrato Luca Flipper, avanti. Io gli ho detto a Luca Flipper che quel microfono era 10 anni dentro l'armadio, io te l'ho dato per provare perché chiaramente le connessioni mi toccano uguale, te provo. Se va bene, sicuramente avrà problemi il microfono, ma la radio non è questo granché, Robè. Non avendo mic gain, lì ci vuole un microfono che spinga bene, che sia a posto per farlo andare. Perché come vedi anche col microfono normale non è che vada molto bene, è troppo bassa la modulazione, a differenza del mio Nuit che c'è il mic gain, spinge bene anche col microfono normale, capito? Comunque c'è Antonio Riserva, Gianni Rotterrum, che ho reggito, io, tu, poi c'è Luca Flipper, non lo so, vabbè, cambio per Muros, allora avanti, chiodo. Ma tu, poi domani ti dico chi è, Robè. Ma tu, dove ci sei? Claudio, mi senti? Sì, che ti sento. Passate, non lo so se io lo passo, ma voi lo passate. 11 qui da me, 9 di 11. Eia, Gianni, non può passare nessuno perché ce l'hai nella collinetta di fronte a te. Ti ricordi dove abitava Natalino? Sì. Perfetto, lì è. Ma non sono io, No, già mi ha capito Gianni. No, non lo so. E vabbè, comunque questo segnale ce ne sono tanti che mi arrivano, anche dalla Tedoce, ce l'hai da altre parti. No, io non posso dire nulla, però questo è, cioè non passa nessuno. Ma scusa, fai i nomi di quelli che parlano dalla terroccia, c'è un uomo di 70 anni di bobboli abortanti, può rompere i coglioni in questa maniera. Fai uno più uno, cosa c'è dalla terroccia? Sono quattro bassone per vedere la terrocci, tutte grandi, tutte persone grandi, cosa mettono? Portanti a noi? Non è dalla terroccia, vai tranquillo. Aspetta un attimo, Massimiliano, ci sei? Cosa? Io stavo chiamando Massimiliano, perché volevo che lui controllasse questa portante. Non vuoi più 11 da me. Dammi, non mi sentivi? Sto dicendo che qua è 9 più 20, ed è un segnale che a Gianfranco ha già riscontrato, anche come zona. Se vi ricordate dove abitava Natalino, fa uno, quella è la zona. Ebbene, Natalino abitava a Monte, abitava poi, che ne so. Non so cosa dirti, 9 più 11. Infatti, portanti, che io ho visto la portanza, c'era Massimiliano sul 12, e io subito sono passato lì per poterlo farlo passare sul 10, per vedere cosa gli arrivava di portante, se era più o meno come arriva a me. No, io sto parlando dove abitava Natalino, su in alto a Filigheddu. Ho capito, ma lì che ci abita, lo sapevo che ci abita, non credo, vabbè, comunque. Comunque, vabbè, vai, bene troppo, continuate. Ero curioso di, solo che, non so se Massimiliano l'ha riscontrata questa portante, se mi ha capito quando l'ho chiamato poc'anzi di passare qua per vedere quanto gli avevo per lui, ma non mi risponde. Massimiliano, sì. Giulio, non prendere fischi per fiaschi, io non me ne ho fatto, ho detto la zona, ma non è quella persona che fece lo tuo, mio collega radioamatore, escludi. Un'altra persona che abita in quella zona. Sì, lo so, io non sto pensando a nessuno, era solo una curiosità per sapere se la quinidona avesse considerato che qui arrivava 9 più 10, 9 più 11 per l'esattezza, e volevo sapere quanto arrivava Massimiliano per fare un po'. Bianco per me un attimo. Ma niente di tutto, poi non lo so, io non posso saperlo. Ma Massimiliano non, purtroppo non mi risponde, evidentemente, o non è passato, poc'anzi non mi ha capito quando gli ho detto di passare qua, o perlomeno non ha più risponde adesso, che ne so. Giulio, ciao, buonasera. Quando c'era la portante, a me mi sentivi? Sì, a te ti sentivo, certo che ti sentivo. E poi, infatti, ti ho anche chiamato un poc'anzi, ti ho detto, se tu sentivi a me... No, io non sentivo nessuno. E qua proprio blocca tutti. Si sente qualcuno che mormora, ma non si capisce cosa dice. Ho capito, ero curioso di sapere se copriva anche a me, visto e considerato che ha il mio stesso segnale, visto e considerato che tu mi hai sempre detto 9.30 per me, e 9.30 è stato importante, volevo capire se effettivamente era così o meno, tutto lì, vabbè dai, continuate pure, vai. Ormai non la sta promettendo, perciò non è caso nemmeno di continuare, vai. Poi già quella da bravo, vediamo un po'. Se non è un imbecille già qua da bravo. Non volete più. Tutti fuggiti ce ne sono. Tutti fuggiti ce ne sono, bubu. Bubu, ma io comunque continuo a rimanere l'ascolto, vai. Poi lo riprendi tu, Gianni, fai girare. Ehi, dai, mi sembra che ci sia... chi tocca, te non riserva, riprendi. Sì, ciao Giulio, ben ascoltato. Ciao Antonio, ciao a tutti, vai. Ti rendo l'ascolto, che non ho voglia, dai. Tu non hai mai voglia, tutte le volte che ti sento mi dici sempre che non hai voglia. Non mi risulta, te l'ho detto solo oggi, non mi risulta. Giù, ti stai svogliando, non invecchiare. No. Ehi, vabbè, dai, comunque no. Non fa niente, continua a fare ascolto volentieri, non c'è problema. Ehi, dai, siamo qua, buon ascolto allora. Claudio. Comunque, un attimo, Claudio, comunque quel segnale anch'io lo conosco, però come fai? Vabbè, dai, non polemizziamo adesso, entro tutto, dai. Continuate, non è importante. Non ci ho capito un granché. Qualcuno conosce il segnale, ma non vuol dire di chi è, così. Sì, perché non c'è scritto il nome sopra. Vabbè, non lo metto in dubbio, ma io ad esempio il segnale non ne conosco perché raramente guardo lo smitter e raramente c'ho buone ricezioni. se riconoscono il segnale bisogna avere un'antenna almeno 20 anni, piazza alta, che stai 20 anni ascoltando tante persone, cioè così io che posso dire sì, che mi arriva più forte di Gianni, meno forte di Giulio, quasi così come Claudio, però cosa posso dire? Che è lì dietro l'angolo, potrebbe essere da qualsiasi parte anche in macchina. Certamente sì, beh ovvio, questo è più che ascoltato, vabbè dai, comunque lo prendete, continuate, bravo Gianni, riprendi, dai, rimango in ascolto. Scusate, non trovavo il microfono. Già. Minimo lo far dire, È che ho attaccato un altro apparecchio adesso, capito? Praticamente sono al buio e non vedevo dov'era l'altro microfono. Già sei bello già che al buio non trovi il microfono. E ora l'ho trovato, va. Questo come va? Questo qua è il Cora. Però ti ascoltavo meglio con l'altro. Con questo sei, mi sa, un tantino più forte di segnale. Però come modulazione con colori meno metallico, con questo sei più metallico, è come se metallico, punto. Questo, aspetta che abbassi un po', forse era troppo alto, questo è un ZJimmy, di chi si microfoni che hanno l'affare giallo, che poi l'ho verniciato perché non mi piaceva, adesso meglio va. Sì, adesso non c'è più quel rimbombo metallico, non è male, guarda che quei microfoni ZJ, il circuito di preamplificazione è praticamente lo stesso del più 4, però ridotto in dimensioni diverse, cioè non pensare che la ZJ si mette a fare 100.000 progetti per microfoni amplificati. Quello lì ha fatto per il Palmare, quello ha fatto anche, sono uguali, che hanno solo le dimensioni. Hanno rimpicciolito e basta, così? No, non è che erano, sì, cambiano le dimensioni, hanno tolto alcune cose, ne hanno messo altre, ma hanno variato delle resistenze, ma diciamo il circuito, quello che è rimasto è quello. Cioè, il circuito di amplificazione è quello. Pappa, io ne ho uno di circuito di amplificazione di microfono amplificato, ti interessa? Un circuito di amplificazione di microfono amplificato. Pappa, gappa. Ce l'ho. Del Proxel, che funziona, tra l'altro. Funzionante. Solo che mi si è spaccata la plastica e l'ho tolto di la miglia dei luci. Mi ho conservato la capsula, le cose che mi servivano e via. Adesso Proxer ne ho uno solo. Vabbè, tienilo a parte, si può sempre costruire un microfono di tavola. Cava. Beh, certo che sì. E adesso ho abbassato l'amplificazione, dai. Adesso sarà normale come radio. No, non è normale, si sente che la radio è amplificata, però non è esagerata. Ho capito, dai, così va bene. Aspetta, dimmi se da che punto lo posso alzare, tu. Perché, guarda, ora lo sto sempre alzando di più, ora, guarda, così va bene. Sì, però se poi urli non va più bene. Devo parlare piano, ho capito. Devo essere rilassato parlando. Esatto, perché se tu sì, come fa Giulio quando parla, che a un certo punto si adira, no? Però non va più bene. Mi avevano detto che era anche cupa come radio, vabbè. Questo che ho fatto tutto io, dai, ho cambiato la capsula, questo microfono qua. Già, lascia stare, che già va bene, poi ripeto, al giorno d'oggi, tutti questi fronzoli non servono più a nulla. E infatti, ci puoi mettere anche un microfono normale, va tranquillo, tipo il Galaxy, col microfono normale c'è bene lo stesso. Chiodo arrugginito, ci sei ancora? Ah,